Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Piercarlo Morello è dottore in scienze umane pedagogiche, un corso di laurea magistrale della durata di 5 anni, un laureato come tanti si dirà, e invece Piercarlo è il primo ragazzo autistico non verbale a raggiungere questo traguardo in Italia. 33 anni, trevigiano di Volpago del Montello, ha saputo insieme ai genitori superare tanti ostacoli, compreso quello di raggiungerle per le lezioni Padova, distante 70 km in treno, da solo, fino alla discussione della tesi, nella sala di Palazzo Liviano, sede della facoltà di lettere e magistero, conclusa con il punteggio di 96 su 100. 10. E per l'autorità conferitami che rilascio la laurea magistrale in scienze. È una bella notizia. Come tale tutti l'abbiamo presa. Siamo stati contenti dal fatto che un ragazzo con una disabilità grave si sia laureato. Però a fronte di questa notizia ce la sentiamo di fare qualche piccola precisazione. Restando felici, soddisfatti e contenti per una famiglia che ha raggiunto un così importante traguardo, per un ragazzo che ha comunque avuto una soddisfazione, però il fatto che ci siano titoli di giornali che dicono il primo ragazzo autistico si è laureato, questo fa sì che dobbiamo fare qualche precisazione. Questo ragazzo si è laureato, sì, ha preso una laurea a Padova, una laurea in pedagogia, al massimo dei voti, però si è laureato con un sistema di comunicazione che viene usato nel caso di soggetti autistici che si chiama comunicazione facilitata. Consiste in un facilitatore, una persona che sta accanto a questo ragazzo, che tenendogli una mano sulle spalle o sul braccio guida la sua mano e il ragazzo risponde e scrive. Per l'esperienza che noi abbiamo di questo tipo di patologia, di questo tipo di disabilità, sappiamo che un ragazzo che viene considerato autistico, cioè autistico cosiddetto a basso funzionamento, come appunto mio figlio, tanto questo non sia un mistero, è un ragazzo che ha un profondo deficit cognitivo, che uno può inventarsi tutte le maniere che vuole per farlo comunicare, ma tanto per dirlo in maniera molto concreta, dove non riesce ad arrivare, non arriva nemmeno se qualcuno gli pone delle interfacce di comunicazione diverse. Questo non vuole togliere la soddisfazione, la felicità e la clamorosa notizia di questo ragazzo che si sia laureato, ma questo vuole anche spiegare alle tante famiglie che hanno un ragazzo con autismo che non è che chiamando un facilitatore e mettendolo vicino il vostro ragazzo guarisce l'autismo. Questo è un messaggio molto duro, mi rendo conto, è qualcosa di spiacevole da dire, da sentirsi dire, ma però dobbiamo evitare che delle cose in sé liete, in sé che mettono allegria e speranza, non servano a seminare invece delle false speranze in chi già ha un grosso problema in casa. Siamo reduci da situazioni analoghe proprio nel campo della sanità, nel campo della diffusione mediatica di notizie riguardo a portentose, favolose, miracolose maniere per superare patologie, e oggi siamo qui per fare un punto di chiarezza. 800240024. Lui è un apripista a Padova, dietro di lui oggi altri ragazzi con autismo stanno frequentando, e quindi la sua esperienza deve proprio servire a tanti e deve servire anche all'università a capire che c'è un modo diverso di accogliere studenti con disabilità particolari. Fino a 13 anni Piercarlo era considerato un ritardato mentale, seguito da insegnanti fuori dalla classe, spesso senza i suoi coetanei. L'autismo, secondo una stima, colpisce circa 1.800 persone in Veneto, eppure a disposizione delle famiglie ci sono solo 500.000 euro complessivi. Per questo disturbo cerebrale, che porta evidenti anomalie di comportamento, decisiva è la diagnosi precoce. Piercarlo parla poco e così ha discusso la tesi con i suoi docenti attraverso... Mi rendo conto anche dell'impopolarità in un momento in cui la gioia e il tripudio ci porta ad aprire la speranza di dire queste cose, ma mi sento di farlo per chiarezza. Vorrei chi avesse conoscenza in qualche maniera di problemi analoghi mi chiami e dica il suo punto di vista. Non siamo qui per contrapporre comunque delle discipline, delle teorie. È che esistono delle linee guida sull'autismo pensate, immaginate, studiate e condivise dall'Istituto Superiore di Sanità, che dicono che la comunicazione facilitata non è una terapia oppure un metodo consigliabile per chi abbia un figlio autistico. Perché? Perché semina l'illusione che dentro il figlio autistico esista una sorta di anima profonda, insondabile, insopprimibile, inconoscibile, solo attraverso il facilitatore riesce ad emergere. Quindi ragazzi che in realtà hanno livelli anche molto bassi di autonomia, di capacità appunto di essere sufficienti a se stessi, si esprimono in maniera sublime, con dei pensieri poetici. Ora, questo non voglio dire sia il caso del ragazzo che felicemente si è laureato, ma è una cosa molto molto frequente. Abbiamo al telefono il professor Carlo Anao. Carlo Anao, buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Anao è docente di programmazione, organizzazione e servizi sociali e sanitari all'Università di Modena e Reggio Emilia, membro del comitato scientifico dell'ANCSA, che è l'associazione nazionale dei genitori di soggetti autistici. Con lui abbiamo spesso commentato l'autismo e i suoi risvolti. Vorrei avere sinteticamente il suo parere rispetto a quello che deve essere valutato e considerato in una famiglia con soggetto autistico di fronte alla notizia che con la comunicazione facilitata un proprio figlio possa raggiungere dei traguardi così ambiziosi e così felicemente raggiunti dal ragazzo di cui abbiamo parlato come la laurea. Ma il primo argomento che mi viene in mente è che bisogna pensare, quando uno prende una laurea, anche a un tipo di impiego della laurea stessa. Cioè, la laurea può essere presa come una laurea honoris causa per una persona che si impegna in un settore, ma normalmente per gli studenti vuol dire un modo di impostare la propria vita lavorativa. Ecco. Quindi ci sono tante lauree che soggetti con sindrome autistiche possono prendere. Forse quella della pedagogia è quella meno vicina alle loro possibilità di impiego reale. E questo non vuol dire che ci siano, che non ci siano, perché in effetti ci sono, e io ne ho anche come relatore di tesi di laurea, delle persone con sindrome di Asperger che possono essere veramente utili a aiutare, no? le persone che invece hanno sindrome autistiche pesanti, e aiutando proprio anche in quello che è il rapporto col resto del mondo. Ecco, professor Anao, quando si parla di comunicazione facilitata, perché i giornali oggi ne parlano come qualcosa di scientificamente accertato, condiviso, di cui tutti leggo i titoli su Repubblica, le frasi di questo ragazzo riportate come sia realmente accertabile, la comunicazione facilitata mette in contatto il mondo esterno con una parte profonda e nascosta dell'autistico. Non è il caso di Pierre, che, di cui non so esattamente lo stato, e quindi sono felicemente contento che si sia laureato, ma un ragazzo autistico, cosiddetto a basso funzionamento, che non parla o parla pochissimo, parla in maniera ripetitiva, non esprime i suoi bisogni, può essere plausibile che attraverso un facilitatore improvvisamente componga poemi che sembra Giacomo Leopardi? Assolutamente no. Infatti la comunicazione facilitata nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità viene definita come una tecnica non consigliata per l'autismo. Quindi assolutamente. Vi sono poi delle prove possibili e facili alle quali purtroppo coloro che fanno comunicazione facilitata non danno peso, fanno finta che non ci siano. Ma è possibilissimo sapere se chi scrive è il facilitatore oppure il facilitato. Ecco, purtroppo se uno non fa questa prova può costruire un castello sul nulla, un castello sulla sabbia. Come funziona, in sintesi, come funziona, tanto per far capire, perché visto che oggi è sulle pagine dei giornali, capire cos'è la comunicazione facilitata. C'è un training che va fatto sul soggetto in cui un facilitatore lo aiuta a scrivere attraverso un computer, ma cosa fa? Gli tocca il braccio, gli tocca la schiena, come funziona? Sì, allora, il fatto che sia un computer non vuol dire niente, potrebbe essere una macchina da scrivere. È più facile col computer perché si sa che, però il problema è che all'inizio il soggetto viene portato proprio a scrivere col dito i vari tasti, poi via via lo si autonomizza. Allora, ci sono alcuni soggetti, pochi, il 6% in una ricerca che venne fatta in Gran Bretagna una quindicina d'anni fa, ci sono alcuni soggetti che riescono a scrivere da soli. E questi scrivono veramente quello che sentono e quello che vogliono dire. E questi non sono soggetti autistici, questi sono soggetti che per errore sono stati classificati autistici. Magari avere un mutismo selettivo, qualcosa del genere? Sì, un mutismo generalizzato, un mutismo selettivo. ma sono persone che capiscono il linguaggio e riescono anche ad esprimersi con un linguaggio scritto, ma questo non vuol dire niente, perché nella comunicazione aumentativa alternativa... Ma se esiste un deficit cognitivo accertato, è possibile che il deficit cognitivo venga compensato da qualcosa che non si capisce, non si studia? Sembra quasi, non so, una sorta di seduta spiritica che in presente viene fuori l'anima del ragazzo che nessuno di noi sospettava. E qualcuno che importò la comunicazione facilitata in Europa disse proprio queste cose qui, disse che era un rapporto al di fuori della fisica, quindi metafisico, no? Tra soggetto facilitatore e facilitato, che insieme si fondevano e costituivano questa unità pensante, ma tutte queste cose sono fuori della scienza, fuori della possibilità di misurarle. Ecco, mi sembra necessario dire che non ha validazione scientifica. La comunità scientifica, gli psichiatri americani, Inghilterra, hanno analizzato, studiato il sistema, hanno detto che non c'è validazione scientifica, quindi non è un sistema generalizzabile, cioè non può valere per tutti, questo è importante dirlo. Che può valere soltanto in pochissimi casi nei quali c'è stato un errore diagnostico. Che potrebbe essere il caso di questo ragazzo. Certo, perché se io faccio un test di quoziente di intelligenza basato sul verbale a persone che non sono verbali, è ovvio che il loro quoziente di intelligenza va a finire bassissimo. Ma questo non vuol dire che se io prescindo, e ci sono dei test fatti apposta per coloro che non sono verbali, prescindo dalla capacità di parlare, gli faccio dei test di intelligenza non fondati sulla parola, questi possono avere un'intelligenza elevata. E allora è un errore quello di considerarli con un quoziente di intelligenza basso. Ecco, gli autistici ne scrivono libri, a volte si legge un libro scritto da un soggetto autistico, mi vengono sottoposti link in questo momento perché mi rendo conto dell'impopolarità di quello che si dice, sembra che uno vuole smorzare gli entusiastici. Chi sono gli autistici che scrivono libri e cosa può scrivere un autistico cosiddetto a basso funzionamento? Dico e ripeto, se ha basso funzionamento non può scrivere dei libri del genere da solo, non può. Cioè, quindi è il facilitatore. Allora si tira fuori i casi, che non sono uno solo, ma quello famoso di Pulse non c'è, dove la facilitatrice aveva fatto scrivere alla facilitata, una bambina, che suo padre abusava di lei. Ecco, questo non era assolutamente vero. Allora, proprio su questo caso che ha sollevato il professor Anau, diamo le informazioni per il traffico. Abbiamo la madre di Pulce, questa ragazzina che sarà poi protagonista di un libro scritto dalla sorella, di un film che sarà proprio presentato domani, per spiegarvi quanto in realtà l'affidarsi a sistemi che non hanno una validazione scientifica possa portare anche a incorrere in situazioni tragiche. Melog, cronache meridiane. La prima cosa speciale a proposito di Pulce è che lei non parla, ma questo non significa che non abbia niente da dire e che non si può mai sapere bene cosa c'è nella sua testa. Che cosa significa che mia figlia non c'è? Il Tribunale dei Minori ha disposto che sua figlia debba essere inserita in un contesto protetto. Avete capito che cosa vogliono? Si sa solo che il problema sono io. Forse qualche volta sei stato troppo brusco, troppo affettuoso. Questo è il trailer del caso di cui accennava poc'anzi il professor Ranau. Pulce non c'è, un romanzo scritto da Gaia Ranieri, che è la sorella appunto di Pulce, pubblicato nel 2009 da Einaudi, romanzo da cui è stato tratto un film che sarà presentato in anteprima domani e di cui ci parla della storia e della sua realtà, ahimè, romanzata ma crudamente realistica, Viola Oggero, che è la mamma di Gaia Ranieri e la mamma anche di Pulce. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Vi racconto la mia esperienza. Parlo soprattutto a chi usa la comunicazione facilitata, perché io sono una persona che ci ha creduto per un sacco di anni. Lei è medico e anche suo marito era medico, quindi eravate due medici. Eravamo entrambi medici, avevamo letto benissimo che non era un metodo scientifico, però di fronte all'impossibilità di comunicare si è disperati e quindi è più facile illudersi. Noi abbiamo fatto abbiamo, come dire, insegnato a Giulia questo metodo. Fra l'altro è un metodo in cui si è supervisionati, anche molto costoso, perché è tutto privato, no? Quanto costa una seduta di comunicazione? Allora c'erano ancora le lire. Noi abbiamo cominciato più o meno nel 97, forse erano tipo 70.000 lire, ecco, immagino così, adesso non ho idea. Comunque, professor Anao, quanto costa una seduta di comunicazione facilitata? Beh, dipende sempre dalla persona che c'è, ognuno di loro hanno tariffe private, quindi ognuno può mettere quello che vuole. Una volta erano poche, adesso credo che siano sulle 20 euro l'ora, 30 euro l'ora, ma dipende dalla qualificazione che c'è. Ecco, risentiamo la storia allora della signora Viola Ruggero. Ripeto, medico lei, medico il marito, cosa sì, è successo? Comunque abbiamo... Dunque, vi racconto qualcosa della comunicazione facilitata? Sì, come avete iniziato? Com'è e poi come finisce? Allora, noi abbiamo cominciato quando mia figlia, Pulce, che la chiamiamo così, per mantenere la sua privacy, faceva la scuola materna. Mia figlia non è verbale, non dice nemmeno una parola, non mi ha mai chiamato mamma. Abbiamo sentito noi parlare di questo metodo, ci siamo informati e ci siamo rivolti alle persone che lo vendevano, fra virgolette mica tanto, perché comunque c'è anche un business dietro, mi permetto di dire questa cosa che temo sia vera. Il metodo è nato in realtà insieme negli Stati Uniti da Bicklin e in Australia dalla Crossley, entrambi avevano scoperto che toccando fisicamente, dando come un prompt a una persona, la si facilitava. E cosa scriveva vostra figlia? Ecco, vabbè, quindi mia figlia, una delle prime cose che ha scritto è: questa zitta ragazza, errore resta. Ecco, ma perché scrivono sempre così? Siamo quasi inversi, quasi poetici, non scrivono mai, ecco, una cosa normale. No, ha scritto anche: posso ruttare in refettorio, oppure cosa ha messo la mamma sulla testa una volta che mi ero messo un gel antisole, insomma. Quindi, ma ha scritto in genere, ma il problema è questo, che purtroppo chi... assolutamente involontariamente, perché io ho facilitato tantissimi anni mia figlia, vorrei dirvi questo, per me è veramente importante, io ho passato anche 5-6 ore al giorno dell'infanzia di mia figlia, anche dell'adolescenza, a facilitarla, che vuol dire a tenerle, nel momento in cui si passa dal tenere il polso al gomito, poi si passa alla spalla, mia figlia, che è molto dismetrica, cioè che non c'entra i tasti, ci metteva anche delle ore a scrivere un pensiero, delle frasi. Per cui noi dovevamo guardare da un'altra parte per essere sicuri di non condizionarla. Ma in quel periodo lì io non le ho insegnato a mettersi le calze, non le ho insegnato a infilarsi le mutande, non le ho insegnato a lavarsi, non le ho insegnato a mangiare con la forchetta. Ma lei non ha mai avuto il sospetto che fosse lei a indurre sua figlia a scrivere? Assolutamente sì, esistono delle prove di validazione e le nostre erano negative. Vale a dire, faccio un esempio, se lei chiede, cioè di fronte alla domanda, che cosa hai mangiato oggi a pranzo, se io sapevo cosa lei aveva mangiato, lei scriveva agnolotti, facciamo che abbia mangiato agnolotti. Se un altro facilitatore non lo sapeva, non scriveva nulla. Scriveva altre cose, scriveva risotto oppure pasta al forno. Avendo capito come funziona, allora, velocemente, qual è stato? Cosa è successo un giorno che ha rovinato, diciamo, la vostra vita? Perché così è. Sì, è successo nel 2001, un giorno sono andata a scuola a prendere mia figlia e mi hanno detto che non c'era, che era stata portata in un posto dove era tutelata meglio. Non mi hanno detto il motivo, mi hanno detto che dovevo rivolgermi ai carabinieri, mi hanno anche detto di procurare il vestire e tutti i farmaci, mia figlia è epilettica, prende un sacco di medicine. Come molti autisti. Come tanti autistici. In realtà io avevo studiato tantissimo della CF e sapevo che non solo nel nostro caso, ma in tantissimi altri casi, diciamo 20 anni prima in America e poi è successo anche in Italia, esisteva la possibilità di denunce di abuso attraverso la comunicazione facilitata. Attraverso la comunicazione facilitata, che quasi mai si rivelavano vere, e perché probabilmente la persona che facilita, vi dico, uno comunque non lo fa apposta di far scrivere delle cose, uno ha l'impressione di non essere lui, ma a livello inconscio in qualche modo si influisce. Viene dal proprio profondo. E cosa aveva scritto Pulce in quel caso? Pulce, io ho saputo mesi dopo, aveva scritto il papà infila il pisello nella passera, quindi per carità io capisco che abbiano, sì, è sconvolgente, che siano spaventati, ecco. Presto a casa mia però passera non vuol dire niente, cioè forse noi la chiamiamo farfallina. Sì, quindi non era manco un lessico familiare. Non era usato. Neanche un lessico familiare. In tre giorni tre Pulce non aveva neanche la diagnosi d'autismo, in tre giorni tre ci è stata portata via, quindi il neuropsichiatra ha dichiarato che è una bambina dotata di vivace intelligenza, mentre purtroppo lei ha un gravissimo ritardo, in grado di parlare anche di Dio, cioè quindi così, che a lungo ritenuta come nel caso della ragazza. Allora, biologico, siccome siamo vicino alla fine, voglio concludere. Sì. Quanto avete messo per dimostrare che era tutta una fandonia e riavere la vostra dignità? Nove mesi pagando un sacco di, cioè, sofferenze inenarrabili, il rischio reale di non vederla mai più. Il papà non l'ha potuta vedere per nove mesi, neanche i nonni, nessuno. Io e mia figlia potevamo vederla una volta alla settimana in comunità, controllati da due operatori. E adesso è tutto finito, nel senso, era una stupidaggine, hanno detto praticamente dovrebbe tornare tutto come prima, ma è difficile torni come prima per voi. No, ci sono voluti anni perché Giulia tornasse, diciamo, all'umore di prima, e la nostra vita è abbastanza rovinata per sempre. Mia figlia Gaia ci ha veramente ha dato una sorta di riscatto morale al papà, perché fra il resto non hanno detto solo che il papà abusava di lei, hanno anche detto che noi comunque eravamo una famiglia con dei problemi, perché Giulia aveva dei comportamenti autistici, non ci guardava negli occhi, se c'era qualcosa che non funzionava magari poteva avere un attimo di violenza. Ecco, tutto questo perché qualcuno ha dato per vero qualcosa che lei aveva scritto col computer grazie a un facilitatore che scientificamente, la comunità scientifica dice, è una fandonia, non è l'autistico che scrive. Quando vedremo il vostro film con la storia di Pulce? Allora, da domani è il nuovo Sacher di Roma e dovrebbe rimanere due settimane, e poi in tutta Italia nei primi di aprile. È stata okay. Anche un'occasione per dirlo. Grazie che ci ha ascoltato, grazie al professor Anau, grazie a Veo Loggero. Abbiamo cercato per quanto possibile fare chiarezza su qualcosa che non era molto chiaro da come è raccontato oggi dai giornali.